Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. Portate curriculum con tutti questi master, titoli vari, tutto bellissimo, ma non ce ne frega nulla di questo. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Sarà un paese. Davvero toccante questo film documentario di Nicola Campiotti che prende spunto da due domande. Cosa raccontare dell'Italia ai bambini? E soprattutto perché questo paese viene lasciato dalle persone più care al regista stesso? Il trailer lo trovate su YouTube. E il nostro baricentro oggi si sposta a Oriente in questa prima puntata di dicembre. Lo faremo sia con la storia della settimana che ci porterà nel mondo dell'e-commerce, sia con la rubrica mensile L'Ideogramma. Ma un consiglio spassionato: se siete musicisti, tenete l'orecchio ben incollato alla radio. Menzione speciale infine per i controesodati: oggi ne avremo ben due in onda. La frase della settimana è copyright di Mario Draghi, presidente BCE. Tutti, ma specialmente le generazioni più giovani, hanno pagato un prezzo molto elevato nella crisi di questi anni. La vita adulta degli studenti è stata segnata dalla crisi, una crisi economica europea durata troppo, da cui stiamo solo ora gradualmente emergendo. Per Draghi, il numero inaccettabile dei disoccupati, tra cui molti, troppi giovani, è stato il prezzo pagato. I dati confermano le sue parole. In Italia quasi il 66% dei giovani adulti under 35 vive a casa coi genitori, una percentuale di quasi 20 punti superiore alla media europea, la più alta dell'Unione dopo la Croazia. Lo denuncia Eurostat. Ben il 49% dei giovani tra i 25 e i 34 anni vive con mamma e papà. Tra questo campione solo il 44% lavora a tempo pieno, una percentuale in calo di quasi 10 punti rispetto al 2008. E questo spiega molte cose. Eppure il termine giovane non deve sempre e per forza coincidere con bamboccione. Basta offrirgli le giuste opportunità e il giusto contesto per polverizzare statistiche così deprimenti. Mi occupo di coordinare nei nostri 8 paesi la gestione dei magazzini, la rete di distribuzione ai nostri clienti, i customer service e gli studi fotografici dove produciamo le immagini per il nostro catalogo. Diciamo una bella sfida. Alessandro Duri, 27 anni, è un Regional Operations Director per una multinazionale a Singapore. Della sua storia parleremo tra pochi minuti, ora in notiziario. Un flash per cominciare col tasso di disoccupazione giovanile che a ottobre risale di 3 decimali al 39,8%, lo rileva l'Istat, che spiega come la fascia più colpita sia però quella dai 34 ai 49 anni, che nell'ultimo triennio hanno registrato un calo dell'occupazione pari a 450.000 unità. Nell'ultimo triennio è cresciuta in Italia solo l'occupazione over 50, più 14%, 900.000 occupati in più. Terza puntata della nuova rubrica Contro Esodati, realizzata in collaborazione con Alessia Marsigaglia dell'Associazione Italents, dal cui network attingiamo le storie che vi raccontiamo. Per info vi ricordiamo italents.org. Questo pomeriggio vi raccontiamo la storia di Francesco Checcacci, 44enne analista finanziario, rientrato 5 anni fa nella penisola. Per lui il ritorno ha comportato un vero e proprio shock culturale e professionale. Anche per questo ha un preciso messaggio da lanciare all'Italia, che vi invitiamo ad ascoltare con molta attenzione. Partiamo però con la sua storia. Mi sono laureato in Italia, a Firenze, in economia. Ho iniziato a lavorare in aziende del settore lusso in Italia. A un certo punto mi sono reso conto, da una parte, che il settore non era più quello che era una volta, e dall'altra mi sono anche reso conto che comunque avevo sempre avuto questa idea di proseguire gli studi in Inghilterra. In particolare sono riuscito a entrare in una buona business school a Londra, che mi ha aperto poi le porte del settore dove volevo entrare. Ecco, quindi poi dove hai lavorato a Londra? Il primo lavoro che ho avuto è stato Morgan Stanley. Quanto poi sei rimasto a lavorare nella City londinese? Tra Londra e Parigi 6 anni. Perché decidi di rientrare? Decidi di rientrare per motivi pratici. Da una parte, Londra è una città molto bella e molto stimolante, soprattutto per chi non ha famiglia o non ha figli, a mio avviso. Ricevi un'offerta dall'Italia, giusto? Sì, ricevo un'offerta dall'Italia. Avevo mandato un curriculum un po' così per vedere cosa succedeva. Tempo dopo un anno e mezzo, tra aspettare che chiamasse qualcuno e colloqui vari, arriva un'offerta che più o meno va bene. Non sto a dire che era molto inferiore a quanto guadagnavo su, però anche in Italia o casa, considero che le spese sono inferiori, dico vabbè, ci possiamo stare. E quindi quando sei tornato? Sono tornato 5 anni fa, circa nel 2010. Ora lavori in Italia, però hai cambiato percorso, corretto? Sì, è corretto. Sono sempre più o meno nel settore, però cose diverse da quelle che facevo, più simile a quello che facevo in Inghilterra. C'è stato un shock di rientro, potremmo dire, a livello di ambiente lavoro, condizioni di lavoro, eccetera. Cioè c'è qualcosa dove l'Italia deve ancora fare strada? C'è stato uno shock di rientro e non solo sul lavoro, perché la mentalità in generale qui è molto meno aperta, è molto meno ricettiva di nuove idee. Io quello che ho sempre detto è che quando qualcuno mi fa questa domanda, che in Inghilterra per ogni problema si cercava la soluzione, qui per ogni soluzione si cerca il problema. È chiarissimo. Portava un'idea nuova in Inghilterra, erano tutti colleghi a cercare di superare gli ostacoli che si frapponevano tra l'idea e il metterla in pratica. Qui invece uno porta una soluzione innovativa, sono tutte a dire perché non può funzionare. È un problema di mentalità e di chiusura, di mentalità di questo paese, questo, purtroppo. Esattamente questo. E allora ti faccio una domanda secca, finale e precisa: come dovremmo cambiare la tua proposta all'Italia? Secondo me la maggior parte dei problemi delle aziende italiane e anche della società viene dallo scarso riconoscimento del merito e dalla difesa di posizioni di reddito e di posizione. Secondo me c'è gente che ai vertici di vari istituti e anche dello Stato, probabilmente a livello più di burocrati che di politici, che ormai a quel lavoro lì lo fa da 20 anni. Il mondo però è cambiato, vanno cambiate le persone. Siete contro esodati? Volete raccontarci il vostro rientro nella penisola? Scriveteci giovanitalenti@radio24.it. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci porta fin nel sud-est asiatico, a Singapore, uno degli hub dove si progetta il futuro. Nome? Alessandro. Cognome? Duri. Età? 27. Città di origine? Premariacco, provincia di Udine. Studi? Laurea in International Management. Anno in cui hai lasciato l'Italia? 2009. Per andare dove? Hong Kong. Perché? Per un periodo di studi universitari all'estero. Quale lavoro svolgi attualmente? Sono Operation Director per un'azienda di fashion e-commerce nel sud-est asiatico. Dove? Singapore. Tornerai? Non nel breve periodo. Compiuto da poco 27 anni, vengo già invitato a molte conferenze dove mi viene chiesto di spiegare come si costruisce una complessa logistica di e-commerce nei paesi asiatici. Soprattutto ho un'organizzazione e un management che credono in me, danno valore a quanto faccio nonostante la mia giovane età e mi spingono ogni giorno a cambiare lo status quo delle cose mettendomi nelle condizioni di farlo. Alessandro, quanto ancora è ampio il divario tra Italia ed estero? Ti chiedo in termini di opportunità di crescita e valorizzazione dei talenti anche nelle imprese. Credo che il gap sia ancora abbastanza ampio, specialmente delle industrie dove la mentalità del management nostrano è più tradizionale e meno spinta al cambiamento. Viene data forse troppa importanza all'esperienza tradizionale, forzando i profili di giovani promettenti ad una crescita e un percorso di apprendimento più lenti di quello che può accadere all'estero. Questo magari è meno vero in settori più dinamici come la consulenza, dove si spinge a valorizzare il talento per proporre o vendere più progetti, ma il fatto che i talenti che fanno carriera si concentrano in questi settori terziari crea, a mio modo di vedere, meno valore di quanto un giovane possa dare innovando l'industria. Allora, fin dalle scuole superiori ti consideravi cittadino del mondo, per questo ti iscrivi a Economia Internazionale in Bocconi, approfitti presto di un semestre di scambio accademico a Hong Kong e ti chiedo perché proprio l'Asia? Quale direzione verso cui tendere? La Cina ai tempi era il grande dragone invincibile che trainava la crescita economica, mentre i mercati occidentali un po' annaspavano. Io volevo una sfida un po' per allargare i miei orizzonti e cercare un forte distacco culturale e allo stesso tempo una valida esperienza formativa. Hong Kong alla fine significava questo per me, era la giusta sfida al momento giusto della vita. E l'esperienza nell'ex colonia britannica cambia la tua prospettiva, rientri nella penisola, completi la laurea triennale, ti iscrivi a una doppia laurea tra Cina e Italia. Ti chiedo subito quali differenze in termini qualitativi hai riscontrato tra i sistemi educativi italiano e cinese, che voto daresti loro? Credo che il sistema didattico italiano alla fine si meriti un buon voto alto, un buon 8, perché alla fine è un buon asset per i giovani come me, dà una preparazione completa, fornisce soprattutto un ottimo metodo col quale approcciare i problemi e dà le giuste basi per prepararsi al mondo del lavoro. E quello cinese? Quello cinese in realtà sta cercando di colmare più in fretta possibile quel gap fra l'ipertradizionale istruzione accademica ereditata e un approccio più americano all'educazione. Stanno rientrando in Cina un gran numero di professori e dottorandi dagli Stati Uniti. Giovani Talenti si ferma per un attimo, ci sono strade in diretta, noi torniamo subito dopo. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta tutti i giorni alle 9, Mix 24, con i faccia a faccia, le inchieste, i gialli della storia di Giovanni Minoli, dentro la notizia di Mario Sechi, i Salamini di Pietrangelo Buttafuoco, la storia e la musica di Alessandra Fiori e Franco Schipani e tante novità per l'unico programma di Radiovisione. Ascoltaci anche in digitale sul DAB. Giovani Talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Alessandro Duri, 27enne manager per la multinazionale Zalora a Singapore, una formazione internazionale fin dall'università, quella sostenuta da Alessandro che, nonostante l'ottimo curriculum di studi in Italia, trova solo offerte di stage. Dall'estero giunge la proposta migliore che lo porta fin nel sud-est asiatico, dove in pochi anni ottiene importanti opportunità professionali e di crescita aziendale. Ora guarda un'Italia dove ci sono ancora molte cose da cambiare, cominciando dalla reale valorizzazione dei talenti. Riprendiamo allora l'ascolto. Giovani Talenti. Tu non ti fermi, nel luglio 2010 riparti per Shanghai, anno dell'Expo, ti aspettano due stage presso aziende italiane operative nel business cinese. Furono esperienze super soddisfacenti dal punto di vista professionale, ma molto deludenti dal punto di vista della gestione del capitale umano, ricordi ancora. Quali erano le principali pecche dei nostri manager? È rimasto un po' quell'amaro in bocca nel sentirsi un attimino sfruttato. Ovviamente ero stagista, non avevo grandi aspettative da un punto di vista remunerativo, però nemmeno mi aspettavo di sentirmi dire di aver avuto l'opportunità di fare quell'esperienza come fosse la mia vera remunerazione. Non era né motivante né tantomeno corretto per chi stava già investendo molto sul futuro. Molto italiana questa mentalità. Torni a fine 2011 per concludere gli studi accademici. A quel punto ti guardi intorno, qui nella penisola, forte del curriculum internazionale. Sei determinatissimo. Scarti le due soluzioni più logiche, consulenza e banche di investimento, e punti sull'industria. Ti orienti sulle maggiori, poche tra l'altro, multinazionali italiane. Sostieni i colloqui con tutte e da tutte ricevi proposte. Il problema però fu che tipo di proposte, lo vogliamo dire? Stage ed eventualmente un contratto di apprendistato ai minimi dopo l'eventuale conferma. Accettare proposte del genere avrebbe significato chiedere ai miei genitori un ulteriore sforzo per mantenermi, anche dopo i sacrifici fatti per farmi studiare, consideri. Questo per me è tuttora inaccettabile. L'ennesimo autogol dell'Italia, lo definisci, e ti sarei chiesto mille volte il perché di una simile cultura da autogol, e che risposta ti sei dato? Che siamo troppo poco lungimiranti, un po' troppo attaccati al presente. Lo vediamo ovunque, un po' dai politici che non sono mai pensionabili a quelli che sono i capitani d'azienda. Finché consideriamo il capitale umano un costo invece che un investimento, continueremo a fare a raffica di questi autogol. E poi se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti, non te ne accorgi, ma da qua se ne vanno tutti. Durante i processi di selezione feci domanda anche per un incubatore di startup tedesco, Rocket Internet, che stava replicando modelli basati sull'e-commerce in tutto il mondo. Questa dimensione internazionale mi stuzzicò. A differenza dell'Italia, ti chiedo, quale proposta hai ricevuto in termini contrattuali e di stipendio? Era una proposta competitiva, in linea con quelle che potevano essere le offerte delle realtà consulenziali. Di sicuro era un'ottima base di partenza per essere da subito indipendenti dopo anni di investimenti negli studi. Inizia a lavorare su piccoli progetti in Italia, che non vanno granché bene. Qui apriamo il capitolo di un ecosistema ancora forse poco sensibile verso il cambiamento tecnologico, e a un certo punto ti viene proposto di partire per Singapore. Qual era la mission? Costruire la più grande piattaforma di moda online nel sud-est asiatico, partendo dal Vietnam per arrivare fino all'Indonesia, passando per le Filippine e la Malesia, un mercato inesplorato e ancora ad oggi acerbo, tutto da costruire. Dici poco. È impressionante la tua crescita professionale quando non hai neppure compiuto 30 anni, da business analyst fino a quale ruolo e con quali responsabilità, soprattutto ora? Da 2 anni sono Operations Director per Zalora e mi occupo di coordinare nei nostri 8 paesi la gestione dei magazzini, la rete di distribuzione ai nostri clienti, i customer service e gli studi fotografici dove produciamo le immagini per il nostro catalogo. Diciamo una bella sfida. Solo investendo sulle risorse umane possiamo assicurarci migliori talenti che escono dalle università. Le parole e l'insegnamento del tuo primo capo che ti assunse non te le sei mai scordate e ne hai fatto un mantra. In che modo praticamente? Ora mi trovo ad assumere una gran varietà di profili, da chi ha svariati anni di esperienza nel mio settore a neolaureati o stagisti. Cerco di valutare le persone per il loro potenziale e vedere come il più grande investimento sul quale la mia azienda si deve concentrare proprio questo potenziale e questo tipo di persone. Ti ci vedi a tornare qui? Non nel breve periodo. Credo che in un orizzonte di medio termine sì, spero vivamente di poter tornare e mettere a frutto tutto quello che ho imparato qui. Ci sono dei segnali positivi dal mondo delle start-up, ma anche da realtà aziendali che si stanno strutturando sempre di più verso veri programmi formativi, dando ai giovani responsabilità fin da subito. La nostra domanda di rito: come vedi l'Italia dall'estero, cosa c'è che non va? È una proposta concreta da cui ripartire. Vedo che siamo ancora un paese fin troppo tradizionale, attaccato un po' troppo alla sua storia. Sarebbe bello vedere i nostri imprenditori, i manager, includere magari nel loro prossimo piano di gestione un consistente budget per investimenti in giovani risorse. Possiamo tagliare fino a un certo punto i costi in azienda, ma tagliarli sul futuro è un grande autogol. Ci raggiungerà in linea Riccardo Schiavotto, giovane imprenditore che dall'Oriente invece è rientrato per avviare una propria attività nel mondo dell'e-commerce. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti. Riccardo, riprenderei con te il filo del discorso partendo dal tema cambiamento. Cambiamento culturale e di modelli, anche di business, che voi giovani dell'esperienza internazionale provate a riportare qui nella penisola. Domanda secca: l'Italia, a tuo parere, è un paese pronto al cambiamento? Per quanto riguarda il cambiamento, l'Italia credo sia, come su tanti altri argomenti, un paese a due velocità. Ci sono delle realtà stupende, organizzazioni molto propense al cambiamento, che però si devono scontrare con realtà ben più statiche che fanno resistenza. Il risultato finale è che il cambiamento è molto lento e spesso traumatico. Studi ingegneria gestionale a Padova, laureandoti col massimo dei voti, poi inizi a lavorare presso una società di consulenza americana, prima di capire che non è la tua strada. Ti iscrivi a un MBA tra Parigi e Torino prima di entrare nel mondo startup. Fondi con un tuo socio Lanieri.com. In un flash, qual è l'idea alla base? L'idea alla base è di vendere con un mezzo nuovo un'eccellenza italiana, come la sartoria su misura. Ovviamente ci siamo dovuti inventare tutto, perché non si può soltanto vendere un abito su misura online, ma ci sono tutte delle modalità e dei processi da inventarsi da zero. Apriamo una parentesi: concluso il master, non vuoi rimanere in Italia, così cogli l'occasione per un impiego a Singapore per Zalora, e qui la tua strada si incrocia con quella di Alessandro. Anche per te una carriera professionale rapidissima in Oriente. A che velocità si viaggia a quelle latitudini? Si viaggia molto molto velocemente, proprio perché le persone brave sono immediatamente riconosciute e valorizzate, vengono spesso date maggiori responsabilità di quelle che si è in grado di gestire, e praticamente si lascia alla risorsa navigare e anche fare errori. Ovviamente l'importante è che vengano riconosciuti in tempo e vengano corretti prontamente. C'è una cultura meno propensa alla vergogna del fallimento, ma più alla reazione e al rimettersi in piedi e correggere immediatamente la rotta. A differenza di Alessandro, però, 2 anni fa decidi di tornare in Italia. Perché? Quale motivo alla base di questa scelta? Essenzialmente abbiamo trovato degli imprenditori illuminati, imprenditori e aziende italiane, che hanno creduto nella nostra iniziativa e hanno deciso di investire nel progetto e nel team, e costituiscono, secondo me, appunto quelle entità del cambiamento, quelle eccellenze italiane molto avanti coi tempi. Uno su tutti è l'anificio Reda di Biella, che ha visto con la nostra attività di vendita di abiti su misura la possibilità di anche traghettare la propria azienda nel futuro. Questo è positivo, però tu ci scrivi anche: il rientro in Italia è stato traumatico, e ti chiedo: solo per un ritorno alla dimensione nazionale dopo anni di vita immerso nella globalizzazione, o anche per un discorso di modelli con cui confrontarsi? Sì, diciamo che la problematica essenziale è stata ovviamente passare da città con 10 milioni di abitanti, con fermento incredibile, e di nuovo però confrontarsi con una realtà italiana dove la velocità nel fare le cose e soprattutto la propensione al rischio sono tutt'altro. Sì. Questo, diciamo, più adagiarsi sul pensiero anziché sull'azione, che ho sentito molto all'estero, in Italia è ancora molto presente. Allora ti chiedo, Riccardo, quale ricetta economica daresti al tuo paese e alle sue stesse aziende per sopravvivere e vincere in questa epoca così globale? Parlando anche da imprenditore, ci sono moltissime cose che si possono fare, non credo che ci sia una ricetta, però se dovessi potermi giocare una sola cartuccia è sicuramente ridurre il costo del lavoro, perché tanti, diciamo, dei malanni delle aziende italiane, di cui parlava anche Alessandro, sono legati al fatto che una risorsa per un'azienda ha dei costi incredibili e che poi il lavoratore neanche si mette in tasca. E in più, ovviamente, spingere sempre di più con la meritocrazia, perché è vero che magari una risorsa giovane può non avere l'esperienza, però ha anche molta voglia di fare, anche voglia di sbagliare, e appunto può da comunque dare un impatto notevole. Grazie a Riccardo Schiavotto, in bocca al lupo per il tuo personale controesodo. E domanda di rito per Alessandro Duri: quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando tra le varie vie di uscita a un espatrio? Mettiti sempre in gioco, alza l'asticella e accetta le sfide che anche un'esperienza all'estero ti può dare, con la grande consapevolezza che hai tutte le carte in regola per sfondare. Gli italiani hanno in realtà un'enorme risorsa che li caratterizza in Italia e nel mondo, e questa è proprio la passione che c'è comune in tutto ciò che facciamo. Per cui questa è una grande risorsa, non dobbiamo mai dimenticare di averla e di sfruttarla, tanto all'estero quanto in Italia. Siamo giunti ad Expats, lo spazio di giovani talenti dedicato al mondo della nuova emigrazione professionale. Terza puntata per la nostra nuova rubrica L'Ideogramma, l'osservatorio sulle opportunità in Cina. Emanuela Verrecchia ci porta oggi all'interno del mondo musicale in Estremo Oriente. Cina come terra di approdo per i nostri giovani artisti? Oggi vorrei prendere spunto da una delle ultime storie che ho raccontato sul mio blog Cina di Frontiera, la storia di Laura Trenini, che da 3 anni è primo flauto dell'Orchestra Filarmonica di Wuhan. Wuhan è una città di 10 milioni di abitanti nell'entroterra cinese. Laura Trenini si è laureata in lingua e letteratura cinese alla Ca' Foscari e si è diplomata al conservatorio. Prima di arrivare in Cina ha lavorato in un'orchestra in Messico, dove paradossalmente per un musicista italiano ci sono più possibilità di trovare lavoro. Qual è il valore aggiunto di un musicista occidentale per un'orchestra cinese? Secondo Laura, noi stranieri abbiamo una conoscenza più approfondita dei diversi stili musicali. Mozart non si suona come Beethoven e Beethoven non si suona come Brahms. Per un musicista occidentale è più naturale aver interiorizzato queste sfumature. I contratti con le orchestre cinesi non offrono stipendi elevati, ma comunque migliori rispetto ad orchestre italiane e spesso prevedono l'alloggio gratuito. C'è poi il fatto di poter suonare in un'orchestra, cosa che oggi è difficilissima non solo in Italia ma anche in Europa. Per chi fosse interessato a concorsi in orchestra, segnalo il sito musicalchair.com, dove spesso si pubblicano anche bandi per orchestre cinesi, e l'iniziativa Musica Project Italy, fondata da Laura Trenini, per la promozione e lo scambio di talenti musicali tra l'Italia e la Cina. Per informazioni scrivere a musicaprojectitaly@gmail.com. Mi auguro che queste informazioni siano utili e voglio concludere con una citazione di Riccardo Muti. Noi italiani abbiamo dimenticato che la musica non è solo intrattenimento, ma è una necessità dello spirito. Questo è grave perché significa spezzare delle radici importanti della nostra storia. Per maggiori informazioni potete consultare il blog Cina di Frontiera all'interno del portale China Files. Per interagire con noi potete collegarvi online sul sito di Radio 24, sezione social, su Facebook, nel gruppo Fuga dei Talenti o nella pagina Fuga dei Talenti potrete rispondere alle discussioni del mese che rilanciamo anche sul gruppo La Fuga dei Talenti all'interno del portale LinkedIn. Potete pure contribuire al blog di Giovani Talenti all'interno di radio24.it. È aperta l'iniziativa hashtag collegata a Fuga dei Talenti, la stringa del mese è Bilancio fine 2015, dibattetela in 140 caratteri. Siamo allo spazio Internective, ogni ultimo sabato del mese leggiamo le vostre lettere in onda, la discussione di dicembre. Arrivati a fine anno con l'Europa e l'Italia prossime, così si spera a uscire dalla crisi, la penisola resta in tutta onestà un luogo da cui andarsene? Od ora vale la pena restare? Ricevete soprattutto segnali di un reale cambiamento culturale e di modelli in atto, al di là delle statistiche economiche? Per condividere idee, proposte e denunce nel nostro forum scriveteci giovanitalenti@radio24.it. Vi ricordiamo infine che siamo sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare. Se siete under 40 ed espatriati, candidatevi giovanitalenti@radio24.it. Finisce qui questa puntata di Giovani Talenti, aspetto dunque i vostri contributi via email. Vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30 sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.